falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. È la sera del 30 settembre 1975, c'è una comunissima Fiat 127 bianca parcheggiata a Roma in Viale Pola. Passa un metronotte, sono le 22.50 e questo metronotte sente dei lamenti all'interno della vettura. Chiama i carabinieri. Subito dopo una volante fa partire un messaggio radio cifrato per Cigno, la sala operativa dei carabinieri. Cigno, Cigno. C'è un gatto che miagola dentro la 127 in Viale Pola. Siamo sul posto, mandate un'altra macchina. Va bene. Ad ascoltare il messaggio cifrato non sono solo i carabinieri della sala operativa Cigno, ma anche Antonio Monteforte, abilissimo fotoreporter di Cronaca Nera del quotidiano Il Tempo. Intercetta la chiamata con il suo baracchino collegato alle radio della polizia. Si precipita sul posto. E quindi Monteforte è presente all'apertura del bagagliaio della 127, sono le 23 in punto, e lui scatta una serie di foto rimaste storiche, perché la scena che si presenta e che tutti gli italiani e tutto il mondo potranno vedere è degna, ahimè, di un film dell'orrore. Tra teli e coperte intrisi di sangue spuntano due mani e un volto che è una maschera terrificante. Io me la ricordo perfettamente. È il corpo nudo di una ragazza stremata che farfuglia parole senza senso, accanto a lei il cadavere di un'altra ragazza. La ragazza ancora in vita si chiama Donatella Colasanti, ha 17 anni e la storia che raccontiamo è la sua. È una vicenda raccapricciante, uno dei fatti di sangue più terribili della cronaca italiana del dopoguerra, rimasto famoso con il nome di Massacro del Circeo. Le ragazzine si chiamano Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, hanno 17 e 19 anni. Le sequestrano per un giorno e mezzo di torture sessuali, fisiche, morali. Rosaria muore, Donatella è ridotta in fin di vita. I tre aguzzini però le credono morte entrambe, le caricano nel baule di una 127 e tornano a Roma. Prima di disfarsi delle vittime parcheggiano l'auto sotto casa e si allontanano. I telegiornali raccontano con raccapriccio il fatto. Le foto dei due corpi straziati delle ragazze nel baule sono su tutte le prime pagine dei giornali, già il mattino dopo. E l'interesse è morboso, come sempre accade in questi casi. Ma quello che passano Donatella Colasanti e la sua amica e compagna di sventura, la 19enne Rosaria Lopez, che purtroppo perde la vita, è qualcosa di tremendo, qualcosa che va oltre il semplice fatto di cronaca destinato al dimenticatoio dopo pochi giorni. È un crimine verso le donne, ma anche verso qualsiasi essere umano, verso la dignità e la libertà delle persone. Diventa quasi un crimine politico. Questo delitto fa ancora parlare di sé a distanza di tanti anni a causa dei suoi sviluppi incredibili che arriveranno fino ai giorni nostri. Oh, oh Mary, hello. She met a man along the way. He introduced himself as Richard Slade. Donatella Donatella Colasanti e Rosaria Lopez abitano a Roma, nel popolare quartiere della Montagnola. Donatella è una ragazza tranquilla, senza grilli per la testa, è figlia di una famiglia modesta e tra l'altro è abituata a rientrare a casa anche abbastanza presto, non oltre le 22, perché è minorenne. Suo padre è severo, non vuole che stia fuori la sera fino a tardi. Rosaria di anni ne ha 19, ha la passione per i fotoromanzi che in quegli anni vanno molto di moda, Grand Hotel, Bolero, e anche Donatella e Rosaria vogliono sognare come le eroine di quei fotoromanzi, vorrebbero una vita migliore, uscire dalla realtà del quartiere popolare in cui vivono, vogliono conoscere ragazzi diversi, è normale, magari che provengano da altre zone, che le portino in un cinema, magari di prima visione, in locali più decenti di quelli che si trovano in periferia. Per questo frequentano Piazza Euclide, che a Roma è una zona conosciuta come il ritrovo dei cosiddetti pariolini, i bravi ragazzi della Roma bene, quelli che vivono ai Parioli, il quartiere più esclusivo della capitale. E qui bisogna anche capire il momento storico che si sta vivendo, lo spiega molto bene Massimo Lugli, giornalista e scrittore, un inviato di Cronaca Nera della Repubblica. Erano anni di furore e di politica, erano le due cose, di furore perché effettivamente c'era una violenza che tracimava ovunque. Adesso noi lamentiamo, come dire, una città violenta, ma quella violenza, basta pensare che ci aggiravamo sui 100-120 omicidi l'anno contro i 30-40 che abbiamo adesso, ma più che gli omicidi c'erano i sequestri di persona, c'erano gli scontri per motivi politici tra i rossi e i neri, c'era un clima terribile. E questo delitto, questo massacro orrendo è figlio di quel clima, c'è il sessismo, c'è il classismo, perché due ragazze di Borgata in mano a tre ragazzi dei Parioli, voglio dire, e infatti diventò immediatamente un fatto politico. Ci fu una manifestazione poco dopo, mi ricordo, dei Parioli, sì, organizzata dal Manifesto, con i neofascisti schierati sopra via Chelini e il coso, la polizia in mezzo, finì a sprangate, perché tutto finì a sprangate. Eh sì, il momento storico è chiaro, ne abbiamo già parlato. Poi a Roma la contrapposizione tra destra e sinistra è veramente violenta. Pariolini, borgatari e anche ragazze di Borgata che in qualche modo sognano i ragazzi ricchi, loro non pensano alla politica, il loro sogno di qualcosa di diverso le porta in Piazza Euclide, dove incontrano i pariolini ai quali accennava Massimo Lugli nell'intervista. Intanto i primi due, Gianni Guido e Angelo Izzo, e potrebbe essere una piccola svolta per una vita migliore. Falco e il Gabbiano. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez conoscono Gianni Guido e Angelo Izzo nella zona di Piazza Euclide a Roma. Sono due bei ragazzi. Gianni ha 19 anni, studia architettura, Angelo ne ha 20 e fa medicina. Di solito viaggiano in tre, manca Andrea Ghera, 22 anni, che quel giorno non c'è. Sono eleganti, hanno modi raffinati, sempre un sacco di soldi in tasca ed naturalmente dati dai genitori. Sono il genere di ragazzi che piacciono a Donatella e Rosaria, e le ragazze pensano che siano giovani per bene, perché con famiglie così bisognerebbe essere ragazzi per bene. E però non sanno che Angelo Izzo l'anno prima ha violentato due ragazzine assieme a tre amici, si è beccato una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione, non ha fatto un solo giorno di prigione per sospensione condizionale della pena. Non sanno neanche che Angelo ha partecipato anche a una rapina a mano armata 2 anni prima, nel 73, insieme a Andrea Ghera, il terzo che ancora non conoscono. Si è fatto 20 mesi a Rebibbia Ghera. Gianni Guido è l'unico incensurato, ma questo non vuol dire che non abbia commesso reati, ne ha commessi tanti, solo che non lo hanno ancora beccato. La giornalista e conduttrice televisiva Franca Leosini nel 99 intervista Angelo Izzo. Ascoltate cosa dice a proposito di se stesso e dei suoi amici. Come eravate? Eravate voi ragazzi della Roma Bene, eravate i famosi pariolini, no? Eravate lei, Gianni Izzo e Andrea Ghira. Ecco, anzitutto, cos'era un pariolino negli anni 70? Noi avevamo degli aspetti fortemente negativi, nel senso eravamo dei ragazzi viziati che conoscevamo ben poco della realtà. Facevamo una vita, diciamo, ai margini della legge solitamente, in quanto avevamo in qualche maniera il mito del delinquente, e quindi cercavamo un po' di uniformarci a quel tipo di visione del mondo. Eravamo di estremisti di destra, in quanto consideravamo la destra quella che difendeva dei privilegi che forse neanche avevamo poi in termini reali. A questi va aggiunta un'incultura, no? Una non conoscenza delle cose, ripeto, ecco, io forse le dissi una volta parlando, non ho mai conosciuto un operaio durante tutto. Io effettivamente non ho mai conosciuto un operaio fino a che non sono venuto in galera, per esempio, non avevo mai avuto un rapporto umano, no? Mai conosciuto una persona, per esempio, che lavorasse, insomma, realmente. Di positivo, l'unica cosa che mi sento di ricordare di quei tempi di positivo è che credevamo molto in un'amicizia, certo in maniera sbagliata probabilmente, però provavamo un sentimento molto forte di amicizia gli uni con gli altri. Forse proprio questo assedio ci portava a sentirci non banda, perché banda è una cosa, ecco, forse una forma di fraternità che si era creata, cioè quella cosa che gli adolescenti, no, il gruppo, ecco, noi lo vivevamo molto fortemente. Ecco, sentite, sembra una diagnosi di una persona che si è redenta e che ha capito, invece poi la cronaca e la storia dimostreranno che Angelo Izzo non si era pentito per nulla. Comunque, lo scenario è questo: ragazzi viziati con genitori ricchissimi che li riempiono di qualsiasi cosa, soldi, macchine, non sanno cosa voglia dire lavorare. Si identificano così con l'ideologia di destra, ma solo perché pensano che difenda i loro interessi, non hanno nessun tipo di cultura, neanche per effettuare dignitosamente quel tipo di percorso. E hanno il mito della violenza, del crimine, furti, rapine per noia, lo fanno per sfidarsi, per dimostrare di essere dei superuomini, e soprattutto non hanno nessun tipo di rispetto per le donne. Sentite ancora Angelo Izzo. Come si collocava la donna all'interno di questa mentalità, di questa cultura? Si collocava, era una cultura essenzialmente maschilista, questo è ovvio, insomma. Anche qui, ecco, e oggi mi sento così lontano da questo, per cui ho un po' di difficoltà perfino a dirlo, però noi consideravamo le donne come dei pezzi di carne, come delle non persone. È vero che fino a non so quante centinaia di anni fa si discuteva per se la donna aveva un'anima, quindi. Ma lei personalmente che rapporti aveva con le donne? Poco e niente, cioè rapporti sentimentali pochissimi, diciamo. In realtà poi tendevo a cercare rapporti infelici, nel senso che così mi autogiustificavo. Ma quindi lei aveva un po' paura anche delle donne, diciamo, quello che è. Probabilmente sì, certo, allora non l'avrei ammesso, ma certamente era questo al fondo. Poi probabilmente c'era anche un lato omosessuale nascosto in tutto questo, cioè questa cosa dell'amicizia, del gruppo, era probabilmente una forma di omosessualità non dichiarata o non vissuta, probabilmente anche il lato, l'attrazione che a volte avevi per quell'amico, per quella persona magari che tu non volevi ammettere, no? Non volevi confessare, non volevi accettare te stesso, poi ti portava naturalmente ancora di più a esasperare il lato invece così da donnaiolo, diciamo, in qualche maniera, no? Ingenue Donatella e Rosaria ritengono degni di fiducia proprio ragazzi come questi. Così quando Angelo e Gianni le invitano a bere qualcosa al bar del famoso fungo dell'Euro, loro non ci vedono niente di male e accettano. Dimentica, dimentica, dimentica il mio nome, ricorda quella canzone. Ho vissuto tu questa vita nell'attesa, un bambino grande troppo presto in cerca di qualcosa, un soldato stanco sulla porta che fa passare solo poca luce ma rimane socchiusa, verso il suo destino con in tasca il cuore che ha perduto. E il primo appuntamento è innocuo, gradevole. Loro ormai si fidano di Izzo e di Guido. Quando questi prospettano di andare tutti a una festa a casa di un amico che compie gli anni, le ragazze sono entusiaste, elettrizzate. Una festa in una villa di gente ricca, al mare, in un posto bello dove loro non sono mai state. Sarà un divertimento. L'appuntamento è per il 29 settembre alle 16 davanti a un cinema ai Parioli e poi via in macchina verso il litorale con la 127 bianca. Li attendono tutti gli altri in una villa al Circeo. In realtà alla villa non c'è proprio nessuno. Le ragazze sono cadute nella più terribile delle trappole. Per loro è l'inizio di un incubo dal quale non usciranno mai più. Donatella Colasanti, la nostra protagonista, la ragazza sopravvissuta, lo racconta così. Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata, cioè loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci, quindi non riguarda lo stupro, una cosa che va al di là lo stupro. E il luogo dove tutto si compie è Villa Moresca, nel comune di San Felice Circeo, in zona Punta Rossa. E la villa è di proprietà del padre di Andrea Ghira, quello che non si è ancora visto. E il padre è un noto imprenditore edile di Roma e anche un ex campione olimpionico di pallanuoto. La sua villa è una delle tante che si trovano in quella zona di vacanza frequentata dai ricchi della Roma bene. C'è un motivo preciso per il quale i ragazzi decidono di andare proprio lì e che depone a favore della tesi della premeditazione del loro gesto. È la fine di settembre e al mare ormai non c'è quasi più nessuno. La villa, isolata, è immersa nel verde. È il luogo ideale per fare tutto quello che i tre hanno purtroppo in mente di fare. E tra poco scopriremo cosa e come. Decided that the time was nigh, and for a moment it slipped from view. When it returned, it fairly burned with confidence in you. Oh, a thunder from my steely fist made all the glasses jangle. Oh, when I shot him, I was so handsome. It was the light, it was the anger. Il falco e il gabbiano. Oggi stiamo raccontando una delle pagine più tragiche della storia della cronaca nera italiana. È la agghiacciante vicenda di Donatella Colasanti e stiamo parlando del terribile massacro del Circeo che si compie tra il pomeriggio del 29 settembre 75 e la sera del 30 settembre. Sono due ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, due ragazze delle borgate romane che vengono portate in una villa isolata di San Felice Circeo a circa 100 chilometri da Roma. Sono state invitate lì da Angelo Izzo e da Gianni Guido, che hanno conosciuto qualche giorno prima con la scusa di una festa di compleanno, e loro non vedevano l'ora, insomma, di andare in un posto nel quale loro non erano mai state, non ci sarebbero mai state, la villa di quelli bene, dei pariolini coi soldi. In realtà il compleanno non c'è e l'idea è quella di fare divertire un po' Andrea Ghira, che è uscito di galera da poco, è stato in galera per 20 mesi per rapina. Quindi non si sa quali sono le intenzioni dei ragazzi all'inizio. Di certo hanno in mente uno stupro. Molti anni più avanti, tra gli scritti di Angelo Izzo, si trova questo appunto intitolato Stupratori seriali, che forse ci aiuta un po' a capire la personalità terribilmente disturbata di Angelo Izzo. Credo che lo stupro abbia a che fare con gli istinti primordiali dell'uomo: la caccia, l'inseguimento, la cattura, la preda calda, spaventata, tremante, il possesso. Sì, è vero. In uno stupro la soddisfazione sessuale è poca cosa. È il resto a farla da padrona. Per noi è così. Una volta rotti gli argini, diventiamo degli stupratori seriali. Siamo schiavi della nostra malattia. Ne siamo forse consapevoli a volte, ma non sappiamo più rinunciare. Siamo a Villa Moresca, San Felice Circeo, e per ora con Donatella e Rosaria ci sono Angelo Izzo e Gianni Guido. Sono più o meno le 6 del pomeriggio, i ragazzi mettono la musica, si inizia a ballare e le due ragazze si stupiscono che non ci sia nessun altro alla festa, ma vengono tranquillizzate, stanno arrivando gli altri. Poi improvvisamente l'atmosfera rilassata e familiare cambia di registro, Gianni tira fuori una pistola. Siamo della banda dei marsigliesi, dice, fa riferimento a una gang criminale che in quegli anni imperversa Roma, che compie furti, rapine, sequestri, e è diventata celebre soprattutto per il sequestro di Giovanni Bulgari, il gioielliere, è avvenuto pochi mesi prima. I ragazzi ammirano molto quei delinquenti, si fanno belli con Donatella e Rosaria facendo finta di essere parte di quella banda, anzi dicono che l'amico che stanno aspettando, che sarebbe poi Andrea Ghira, è proprio il capo dei marsigliesi, Jacques Berenguer. Izzo, nell'intervista di Franca Leosini del 99, dice così: chi lo sa che cosa ci passava per la testa, o forse eravamo anche noi prigionieri di un ruolo, nel senso che probabilmente nessuno si tirava indietro, perché se io dicevo 10 c'era chi doveva dire 11 e chi doveva dire 12. Quindi su di voi in un certo senso influiva la psicologia del brano. Questo c'è, perché sì. Ognuno di voi da solo sarebbe stato capace di mettere in atto quei comportamenti? Io non ho mai commesso, diciamo, da solo qualcosa. Probabilmente era una forma di legame che esisteva fra noi, che è come un patto di sangue, cosa le devo dire? Come un dimostrarsi sempre più crudeli, sempre più feroci, sempre più. E questo in qualche maniera ci autolegittimava come superuomini. E chissà Nietzsche come si starà rivoltando nella tomba, superuomini, cioè niente di più lontano dalla parte nobile delle ideologie di destra, questo tipo di atteggiamento. In realtà non sono superuomini per niente, hanno stuprato, hanno commesso rapine a mano armata, stanno aspettando che arrivi il terzo compare per completare il branco, quindi altro che superuomini, hanno una pistola, le ragazze cominciano a spaventarsi, è la situazione ideale, tentano i primi approcci sessuali, le ragazze si divincolano, chiedono di poter tornare a casa, scoppiano a piangere, stiamo parlando di due ragazzine di 19 e 17 anni, e così vengono chiuse in bagno aspettando che arrivi Andrea, e poi danno il via al loro atto criminale. Le ragazze vengono violentate a turno con ferocia inaudita, vengono seviziate, vengono massacrate di botte, sono in balia di mostri che agiscono per tutta la notte e per tutta la giornata successiva. Un particolare agghiacciante che Gianni Guido lascia al Circeo verso le 20, va a cenare a casa per non fare preoccupare i genitori. L'avvocato Tina Lagostena Bassi, che dopo è diventata famosa come giudice a Forum, ma in quegli anni era un avvocato molto battagliera a difesa dei diritti delle donne e che al tempo difende Donatella Colasanti, parla così: bravi ragazzi di famiglia, e Guido ha ragione Donatella quando dice che è il peggiore, è quello che la sera ritornò a casa, perché sennò papà e la mamma stavano in pensiero, per carità, e quindi ritornò a casa regolarmente a cena, cenò tranquillo facendo finta di niente con i suoi genitori, e dopo cena riprese la macchina e tornò al Circeo per ricominciare la sua azione violenta. Eh sì, in effetti anch'io ricordo che una delle cose che mi impressionarono di più fu proprio questa, la lucidità e la nonchalance con cui questo torna a casa, mangia coi genitori, per non preoccuparli, e poi ritorna a perpetrare uno di quei crimini dai quali in teoria dovresti svegliarti, no, nel momento in cui vai via da quella casa. La freddezza e la crudeltà che dimostrano i tre non ha limiti. Dai racconti successivi della superstite emergono dei particolari sui quali noi sorvoliamo, ma che sfociano nel patologico, perché i tre ragazzi sono veramente dei maniaci assetati di sangue, cioè delle persone che sfuggono a qualsiasi genere di comprensione dei meccanismi umani. Arriviamo al momento della soluzione finale, perché ormai le due ragazze non possono certo essere lasciate in vita. Viene presa Rosaria per prima, viene picchiata selvaggiamente, lei non muore, decidono di affogarla nella vasca da bagno. Devono impegnarci tutti e tre, perché lei scalcia, si dibatte, non vuole morire, ma alla fine una donna contro tre uomini ha la peggio. Così Rosaria muore e ora tocca a Donatella, che è già ferita gravemente alla testa. Le mettono una cintura alla gola e la trascinano per il salone cercando di strangolarla. Lei non muore, ma ha un'intuizione che le salverà la vita. Si finge morta. I ragazzi ci credono, decidono di caricare i due corpi in macchina per poi disfarsene a Roma con l'aiuto di qualche amico. Enzo Biagi intervista Donatella Colasanti nel 1983. Si è resa conto che Rosaria stava morendo? Dire che Rosaria stava morendo no, perché stava sul piano superiore. Cioè sapevo che quello che accadeva, però non mi sono resa conto quando è morta. Di quei momenti terribili passati nel bagagliaio, che cosa ricorda? Aveva dei pensieri? Il pensiero è, volevo vedere se riuscivo a rimanere viva. Donatella si finge morta, questo le salva la vita, è l'orrore, si aggiunge all'orrore quando viene rinchiusa nel bagagliaio della 127 assieme al corpo dell'amica senza vita. Riferirà al processo che durante il viaggio di ritorno i ragazzi scherzano allegramente, ascoltano la musica, ripetono zitti che a bordo abbiamo due morte e ancora come dormono bene queste. Arrivati a Roma, i tre hanno fame, decidono di andare a cena con quelli che loro pensano siano due cadaveri nel bagagliaio. Questo è il loro errore, sono troppo spavaldi, sono troppo sicuri di sé. Per fortuna Donatella è ancora viva, riesce a farsi sentire, viene liberata. La ragazza racconta subito l'accaduto e anche se è ferita gravemente in stato confusionale riesce a spiegarsi lo stesso. Ma comunque non ce ne sarebbe stato bisogno perché la 127 è di proprietà di Raffaele Guido, il padre di Gianni, quindi è facile per gli inquirenti risalire ai tre ragazzi. Izzo e Guido vengono arrestati dopo poche ore, Ghira riesce a scappare, non verrà mai catturato. Al processo viene esclusa in maniera categorica la possibile infermità mentale. Ma non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, Giulio. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato. Il processo si apre il 30 giugno del 76 a Latina. Sul banco degli imputati ci sono solo Angelo Izzo e Gianni Guido. Andrea Ghira non sarà mai catturato. Pensa bene di essere presente con una lettera che scrive agli amici, nella quale li rassicura sul fatto che saranno presto fuori per buona condotta, nella quale minaccia addirittura Donatella Colasanti di morte se si azzarda a testimoniare contro di loro. Il processo viene seguito da tutta Italia con il solito interesse un po' morboso. La gente vuole sentire i particolari di quella notte che Donatella deve purtroppo rivivere in aula. E il massacro del Circeo si trasforma in un evento mediatico, assume valenze discutibili, la presa di posizione delle femministe che si costituiscono parte civile contro gli aguzzini rischia di sminuire il crimine perché ne evidenzia gli aspetti legati allo stupro, alla violenza sessuale piuttosto che al delitto contro la persona e all'omicidio di Rosaria. Inoltre le simpatie di destra dei tre ragazzi che si autodefinivano neofascisti scatenano una bagarre politica che in realtà ha ben poco a che fare con questo delitto atroce. Donatella stessa si lamenterà di questo. La cosa che mi ha dato molto più fastidio è stata tutta la strumentalizzazione che c'è stata dopo, fatta da, un po' da tutti, dalla stampa, perché quello che si notava era molto la curiosità morbosa della gente e non è che guardava molto quello che era avvenuto. Poi la cosa che mi ha scocciato molto è il fatto che per me devono intervenire tutti e non solo le donne, perché per me era una cosa che anche se loro erano uomini, però io siccome non considero tutti gli uomini uguali, se loro hanno fatto la violenza su noi che eravamo donne, non c'entra niente, perché non era solamente la violenza sull'uomo sulla donna, nel mio caso, è diverso, va oltre lo stupro. Sì, in effetti anch'io ricordo una strumentalizzazione molto stucchevole da parte delle femministe e anche il tentativo molto sgradevole di politicizzare una vicenda che di politico non aveva ovviamente assolutamente nulla. Comunque arriva la sentenza il 29 luglio 76, 3 ergastoli a Izzo a Guido e in contumacia a Ghira. Nell'80 l'ergastolo di Guido viene trasformato in 30 anni perché la famiglia di Rosaria Lopez accetta un risarcimento di 100 milioni di lire che invece Donatella Colasanti rifiuta categoricamente. Va anche aggiunto il fatto che le ricche famiglie di questi tre ragazzi sono compatte nel difenderli, spendono un sacco di soldi di avvocati senza francamente insomma mostrare troppi cenni di contrizione e di pentimento. E l'evolversi delle vicende dei tre ragazzi è interessante e incredibile. Ghira fugge in Spagna, sicuramente anche lì con i soldi di qualcuno, probabilmente della famiglia. Si arruola sotto falso nome nella legione spagnola, il Tensio, e viene espulso per abuso di stupefacenti. Sarebbe poi morto di overdose, identificato nel 2005 con l'esame del DNA, contestato perché sembrerebbe che in realtà il corpo trovato sia quello di uno zio. Insomma, c'è stato un giallo nel giallo. Forse invece è ancora latitante, è stato avvistato in Kenya, in Brasile, in Sudafrica. Insomma, quando ci sono i soldi si riesce anche a scappare a volte. Gianni Guido è evaso 2 volte, è sempre stato riacciuffato, ha finito di scontare la sua pena nel 2009. Ma la più incredibile di tutte è la vicenda di Angelo Izzo. Ed ora parliamo del nuovo terribile delitto di Angelo Izzo. 2 donne, lo sapete, madre e figlia, ma poi una era davvero solo una ragazzina di 14 anni, uccise e probabilmente anche violentate. Eh sì, avete sentito bene, un nuovo omicidio di Angelo Izzo. Il 29 aprile 2005, seppelliti nel prato di una villa a pochi chilometri da Campobasso, vengono trovati i corpi di una giovane donna, Carmela Linciano, e della sua figlioletta Valentina, di 14 anni. Sono moglie e figlia di Giovanni Maiorano, che è un pentito della Sacra Corona Unita. E le due sono state legate, soffocate e sepolte nel giardino della villa. Cosa c'entrano con Izzo? Izzo è un uomo furbo, in carcere, era un collaboratore di giustizia, ha fatto delle accuse, dei nomi, poi si è pentito anche nelle interviste di cui abbiamo sentito degli stralci prima. Però intanto usufruisce dei vantaggi dei collaboratori di giustizia, viene trasferito nel carcere di Campobasso, adibito proprio ai pentiti. È qui che lui conosce Giovanni Maiorano, che a sua volta gli presenta moglie e figlia quando le donne vanno a fargli visita in carcere. Bene, Izzo partecipa a attività culturali e religiose tese alla riabilitazione dei carcerati e riesce così a ottenere la libertà vigilata. Comunque questo ci fa riflettere anche su quanto spesso con troppa leggerezza vengano liberate delle persone ritenute redente, invece, come direbbe qualcuno, di buttare via la chiave. Ammette subito di essere l'assassino di Carmela, che era diventata sua amante, di averla uccisa perché era opprimente, di aver dovuto far fuori anche la figlia. Al processo parla così: ogni tanto andavo a toccargli la vena per vedere se erano morti. Quando ho sentito che non c'era più, vabbè, avete capito, diciamo, non c'era più la pressione, e ho preso e ho detto, bah, ora allora bisogna farle sparire. Allora ho detto, farlo guidare, metti 2 cadaveri nel portabagagli e farlo 3. Ho detto, qui fa finire, ecco, pezzate al Circeo, qua finisce come al Circeo. Allora ho detto, fammele, allora le seppellisco qua. Beh, insomma, addirittura parlare del Circeo come a dire non voglio più commettere quel tipo di errore, e questo è stato scarcerato da qualcuno che, a cui è stata carpita la buona fede, no? Vabbè, questo duplice omicidio gli vale un secondo ergastolo e accende polemiche sul sistema giudiziario italiano. Questa volta è probabile che dal carcere Angelo Izzo non uscirà più, anche perché alla fine di donne ne ha quattro sulla coscienza, perché Donatella Colasanti muore il 30 dicembre 2005 a solo 47 anni per un tumore al seno, ma a detta dei suoi familiari non ha mai superato la violenza subita dai tre criminali che ha avuto la disgrazia di incontrare. Ci sono storie di persone che hanno avuto un colpo d'ala e ci sono anche storie che noi abbiamo raccontato di persone che questo colpo d'ala non hanno potuto darlo perché le ali sono state spezzate prima. Se avete delle altre storie che volete che noi si racconti, fatelo, scriveteci al falco@radio24.it oppure venite a cercarci e a cercarmi sui miei social. E intanto speriamo che da qualche parte Rosaria e Donatella trovino la pace che non hanno saputo trovare nella loro vita. A lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.